ma al principio della creazione. Tutti gli atti delle creature d'ogni tempo tu hai creato e li conosci tutti. Persino nel numero. Tu hai creato quindi anche l'atto che compie ogni giorno il mio cuore. Hai creato il mio palpito? E tu sai se questi miei palpiti sono tutti per te o per le tue creature? O per le cose create o per l'ambizione o il potere. E tu? Nel tuo amore infinito. Continui. Con la tua volontà onnipotente e paziente. A porgermi il respiro. Il palpito. Il moto. La parola. Il cibo. Continui a mantenere ferma la terra sotto i miei piedi ed a porgermi la luce del sole. E la tua volontà? Che è regina. Fa da serva ai servi. Non essendo da essi riconosciuta. Amata. Adorata. Ricambiata in modo adeguato. Degno e divino. Voglio pertanto oggi offrirti il mio cuore. Il mio palpito. Che almeno in esso e con esso. Io non abbia più a lasciarti digiuno. Voglio pertanto che il mio cuore palpiti solo e unicamente per te. Anzi. Vieni tu stesso. Mio Gesù. Con la tua umanità. A fondere il cuor tuo nel mio. Perché o palpiti col tuo stesso cuore. Respiri col tuo respiro ed ami col tuo stesso amore. Vieni con la tua volontà. Vieni con la mamma e. Col cuore suo immacolato. Vieni nel mio cuore a palpitare del tuo amore. E così ti darò amore per amore. Respiro per respiro. Cuore per cuore. E tutto ciò sarà di te degno. Divino. Adeguato. Perché tutto sarà nella tua volontà e nel tuo amore. E così tu sarai soddisfatto d'aver creato il mio cuore e sarai ricambiato in amore. E sentirò nel mio cuore il tuo cuore contenere il cuore di tutte le creature. E ripareremo insieme ogni palpito profanato ed ogni respiro. Ed il mio cuore nel tuo e col tuo dirà. Anime. Amore. Preghiera del mattino alla Santa Vergine Maria. Dolce mamma. Son desto e corro nelle tue braccia materne. Lo so bene. Oh mamma. Che nel tuo grembo tieni il grazioso bambinello Gesù. È proprio per lui che voglio venire. Ci terrai tutti e due insieme. Non sei tu anche la mamma mia? Porgimi la tua mano ed eccomi nelle tue braccia. Mamma santa. Permettimi che dia un bacio a Gesù e poi a te. Senti. Quest'oggi non scenderò affatto dalle tue ginocchia. Tu mi farai da mamma. Indirizza i miei pensieri tutti a Gesù. Coi tuoi sguardi fissi a Gesù guida i miei per guardare Gesù. Unisci la mia lingua alla tua affinché risuoni insieme la nostra voce per pregare. Per parlare sempre d'amore. Gesù sarà contento nel sentire nella mia voce la voce della mamma sua. Madre mia. Perdonami se son troppo ardito. Fa palpitare il mio cuore nel tuo e guida i miei affetti. I miei desideri a Gesù. La mia volontà. Concatenata con la tua. Formi dolce catena d'amore e di riparazione al suo cuore divino. Per rinfrancarlo di tutte le pene ed offese. Mamma mia. Assistimi e guidami in tutto. Dirigi le mie mani a Gesù e non permettere che mai io compia azioni indegne con cui possa offenderlo. Senti. Oh mamma. Mentre starò nel tuo grembo. Il tuo impegno sia di farmi tutto simile a Gesù. Vedo che Gesù soffre ed io no. Quanto vorrei soffrire assieme. E? Mamma santa. Mettici la tua parola. Di a Gesù che mi faccia soffrire insieme con lui. che pianga insieme e tutto faccia in comune. Tutto da te aspetto. Con le tue mani mi darai il cibo. Il lavoro. I comandi di ciò che debbo fare è sulle tue ginocchia, fammi restare avvinto a Gesù. Cara mamma. Benedicimi e la tua benedizione mi assicuri che mi farai in tutto da madre. Amen. Mamma mia. Ti amo e tua mamma è da un sorso di volontà di Dio all'anima mia. Dammi la tua benedizione affinché possa fare tutte le mie azioni sotto il tuo sguardo materno. Mamma santa. Vieni tu in me a fare ogni mio atto. Guidami tu. Mettimi nel tuo cuore. Voglio fare tanti atti per quanti Dio ne ha pensati per me fin dall'eternità. Anzi, voglio prendere e fare miei proprio quegli atti che Lui ha già fatti e preparati per me. All'angelo custode. Angelo mio. Siamo già al principio del giorno. Il sole con la sua luce vivifica la terra. E tu, angelo santo, portami al mio sole, Gesù, onde l'anima mia si vivifichi tutta in lui. Da Gesù aspetto il pensiero, il palpito, l'amore, tutto il moto della mia vita, perché senza di lui tutto è morto per me. Perciò, angelo mio, fagli premura che venga. E subito, digli che aspetto la luce della sua presenza per attingere la sua vita. Altrimenti me ne starò senza far nulla. Coprimi sotto le ali della tua protezione. E metti in volo i miei pensieri, gli affetti, i desideri, gli sguardi, i passi, i movimenti, la voce. Insomma, tutti pronti sulle tue ali per volare a Gesù. Se egli non viene, portami tu a trovarlo. Presto. Messaggero celeste. Il giorno è chiaro. Non c'è tempo da perdere. E tu lo sai che senza di Gesù non posso stare. E quando starò insieme con Gesù, tu tienimi sotto le tue ali. Fa che la mia compagnia gli sia dolce, ricordando ora per ora ciò che ha sofferto, per soffrire invece sua. Così, aiutato da te, quest'oggi non farò altro che sorvolare dalla terra al cielo per portare in me la vita di Gesù ed impedire che la giustizia scarichi i suoi giusti fulmini sulle povere creature. Dal cielo poi volerò sulla terra per portare a tutti rescritti di grazie, di perdono, di amore. E tu, angelo mio, suggella con la tua benedizione la volontà e tutta la vita di Gesù in me. Santi tutti, abitatori celesti, i vostri sguardi mi proteggano e violentate il mio dolce Gesù, che presto mi faccia rimpatriare con voi in cielo. Il mio esilio. I miei gemiti vi muovano a compassione. E tutti gli atti che farò in questo giorno siano altrettanti scalini che mi facciano arrivare in cielo e mettano termine all'allontanamento del mio sommo bene. Anche da tutti voi imploro la santa benedizione. Vivere con gli angeli nella volontà di Dio. Padre Santo, nella tua suprema volontà, metto il mio angelo custode e tutti gli angeli del paradiso. Fa, o Padre, che essi possano essere investiti di sempre maggior luce, gloria e beatitudine per ritornartela e riceverla moltiplicata. E così per tutta l'eternità. Amen. Divina volontà, nella unità della tua luce, metto il mio angelo custode, perché lo investa di sempre maggiore luce e beatitudine. Fa, o Signore, che il mio angelo sia la stella luminosa del divin volere per la mia anima, affinché vivendo insieme nel tuo volere, possiamo renderti gloria perenne in questa terra e per tutta l'eternità in cielo. Angelo mio, custode mio, rapisci i miei atti e portali a Dio. Angelo mio, custode mio, fammi vivere sempre nella volontà di Dio. Angelo mio, custodisci in me la volontà di Dio. Al mattino e nelle azioni del giorno, nel vestirsi e nel lavarsi, mio Gesù, mi vesto nella tua volontà e con questa tua volontà intendo di adombrare tutte le creature in modo da vestirle tutte con la tua grazia. E poi prendo il tuo volere e tutte le bellezze che contiene il tuo volere e facendole mie intendo con esse vestire la tua santissima umanità per difenderti da tutte le freddezze ed offese che le creature ti fanno. Mio Gesù, il tuo amore unito al mio vuol darti l'amore di tutti e la soddisfazione di tutti. Vesti, o Gesù, tutte le anime con le conoscenze e la vita della tua volontà. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà nel mio lavarmi e lava l'anima mie tutte le anime da ogni macchia di volontà umana perché risplende in tutte l'immagine e la somiglianza divina. Vieni, divina volontà, nel mio vestirmi. Gesù, vesti l'anima mia e tutte le anime con la luce fulgidissima della tua volontà divina. Vieni, divina volontà, nel mio riordinarmi. Gesù, unendomi alla tua S.S. umanità e dalle tue intenzioni, voglio ridonare la somiglianza trinitaria a tutte le anime, alle tue care immagini. Insieme a te, voglio ridonare la somiglianza della potenza della volontà del Padre ad ogni volontà di creatura, la somiglianza della sapienza della volontà del Figlio ad ogni intelletto di creatura e la somiglianza dell'amore della volontà dello Spirito Santo ad ogni memoria di creatura. Confronta. Volume 14. 08. 04. 1922 più volume 17. 02. 10. 1924. Nel camminare. Gesù, metto i miei passi nei tuoi per camminare insieme a te con le tue stesse intenzioni. Intendo abbracciare insieme a te tutti i passi delle creature e riparare con le tue riparazioni tutti i passi sbagliati e rifarli nella volontà del Padre per la sua gloria. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a camminare nei miei passi. Vieni, divina volontà, a muoverti nel mio moto. Dolcissimo amor mio, ti offro questi movimenti del mio corpo che tu stesso mi hai fatto e tutti gli altri che posso fare io per il solo fine di piacerti e glorificarti. Ah? Sì? Voglio che anche i movimenti delle palpebre, dei miei occhi, delle mie labbra e di tutto me stesso siano fatti col solo fine di piacere solo a te. Fa, o mio amato Gesù, che tutte le mie ossa, i miei nervi, risuonino fra loro e da chiare voci ti attestino il mio amore. Confronta. Volume 3, 06. 11. 1899. nel lavoro. Lavoro nella tua volontà e tu, o Gesù, fa scorrere le tue dita nelle mie, affinché lavorando tu in me, ti ripari per quelli che non divinizzano le opere materiali con la tua unione. Ed ogni mio movimento sia dolce catena che formi il nodo per legare tutte le anime a te. O mio Gesù, unisco le mie azioni alle tue per divinizzarle. E le offro unite a tutte le opere che facesti con la tua SS. Umanità. Per darti tutto l'amore e la gloria che ti avrebbero dato le creature se avessero operato santamente e con fini retti. Le ore della passione meno. 20ª ora. O mio Gesù. Fa onore a te stesso e in tutto ciò che faccio metti l'impronta del tuo stesso potere, del tuo amore e della tua gloria. Metto le mie mani nelle tue, Gesù, e prendendo le tue stesse intenzioni come mie, voglio costruire insieme a te il regno della tua divina volontà sulla terra come in cielo, per la gloria del Padre. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, ad operare nelle mie mani. Vieni, divina volontà, vieni nel mio scrivere e scrivi la tua legge nell'anima mia. Mio celeste sovrano Gesù, nascondimi dentro il tuo cuore divino affinché, non fuori di te, ma dentro il sacrario del cuor tuo, io dia principio al mio scrivere. La penna sarà la luce del tuo volere divino intinta nella fornace del tuo amore. Dettami tu ciò che vuoi ch'io scriva ed io farò da semplice ascoltatore e ti presterò la carta della mia piccola anima, affinché tu stesso scriva ciò che vuoi, come vuoi e quanto vuoi. Badaci, mio amabile maestro, a non farmi scrivere nulla da me, altrimenti farò mille spropositi. E tu, sovrana regina, nascondimi sotto il tuo manto, tienimi difeso da tutto, non mi lasciare mai solo, affinché possa compiere in tutto la divina volontà. CFR Vol. 32-12-03 1933 Nel prendere cibo e nel bere siamo niente. Dio è tutto. Padre, ti amiamo. Vieni e continua divina volontà a vivere in noi e nutrici con il tuo cibo. Metto la mia bocca nella tua, o Gesù, per prendere insieme a te questo cibo nella tua volontà, con le tue stesse intenzioni. Muovendo la mia lingua e le mie guance insieme con le tue intendo attirare in me la tua vita ed unirmi con te per dare al Padre la gloria, la lode, l'amore, il ringraziamento, la riparazione completa dovuta dalle creature che tu facevi in quest'atto di prendere il cibo, e con te chiedo al Celeste Padre di donare a tutte le sue creature il cibo delle conoscenze e della vita della sua volontà divina. Bevo, o mio Gesù, nella tua volontà, e bevi tu pure, o mio sommo bene, in me, per estinguere la gran sete che tu hai di tutte le anime. Possa tu trovare in me così abbondante bevanda, da riversare poi su tutti l'acqua cristallina della tua volontà divina. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà nel mio mangiare, e nutrimi con il tuo cibo. Ti ringraziamo, o Padre, nella tua volontà, per noi e per tutti, per questo cibo che abbiamo ricevuto nel tuo divin volere, per la tua gloria, in Cristo nostro Signore.